Susanna ordi e sortite. Sortite così va. Fermatevi, sortite, sortite, la volvo, sortite, la volvo. E chi è dolorosa? E... La vita, la vita. Sorte mia, giudizio, non fanno le sorti resti già.